Buonasera Chiesa, sono al centro? Bene. Quanta bella gente, ti sei guardato intorno? Girati un attimo e guarda quanta bellezza c'è in un solo posto, quanta bellezza c'è nelle persone che hai vicino. Io vi vedo da qui e siamo veramente bellissimi. Hai già detto a qualcuno, sei bellissimo? Diglielo, diglielo. Se sei singolo è la tua occasione. Vai mo, vai mo. Se sei sposato, dillo a tua moglie, guadagnerai grandi punti. Se sei sposato, dillo a tuo marito, guadagnerai tanti punti. Se non sei sposato, mi dispiace. Quest'anno può essere una grande occasione per te, amen. Amen. Chi ride sta dicendo amen. Amen, è gente che si vuole sposare, noi vogliamo pregare per questo. Ma non è il tema di oggi perché non è arrivato True Love, no? Quindi non prendiamo questo. Che tema c'è nel mio cuore? È un tema che sinceramente sto cercando di capire e credetemi con sincerità, voglio capirlo insieme. Perché quello che il Signore ha messo nel mio cuore sono queste parole che vedremo sullo schermo ora. E sono oggi e ora. Oggi e ora. Sono due paroline che appena le dici ti mettono addosso un vai, pronti, via, dove, andiamo, corriamo, dai, forza, via. E sono delle parole che Dio dice al nostro cuore e che Dio sta dicendo oggi e ora alla nostra vita, perché il suo oggi e ora ha tutta l'idea di poter cambiare completamente la nostra esistenza in un'esistenza bellissima, ad un'esistenza straordinaria. E non lo so se sei qui e il tuo obiettivo di vita è finire i 150 anni che ci dà il Signore e dire, bah, ho avuto una vita stupenda, tutto quello che volevo realizzare l'ho realizzato, sono esattamente nel punto in cui volevo essere e ora posso riposare contento. Io avevo per un po' questo obiettivo, ma il Signore ha proprio lavorato dentro di me a cambiare questa prospettiva, perché che senso avrebbe vivere una vita straordinaria, realizzare tutte le cose che ci siamo messi nella nostra lista, nei nostri desideri, e perdere l'obiettivo che Dio ha per la nostra vita? Che senso avrebbe se il tuo creatore, il mio creatore, mi ha costituito per uno scopo e io finisco i miei giorni dicendo, ah, l'ho mancato. Io vivo nella tensione, a tratti dovrei dire nel terrore, di perdere tempo nella mia vita, di non stare pienamente a realizzare quello che il mio creatore ha previsto per me. Per questo parleremo dell'oggi e ora. Ed è qualcosa che c'è, il tempo. Il tempo è esattamente quella dimensione trasparente che però tende a condizionare tutto quello che noi facciamo. Il tempo è con noi da quando noi nasciamo, cioè noi ci formiamo, il nostro corpo fisicamente si forma nel grembo di nostra madre in 9 mesi. Cioè il nostro corpo ha bisogno del tempo giusto per realizzarsi completamente e poi cominciare la vita. E poi cominciamo a vivere e da piccoli viviamo il tempo in una maniera incosciente, perché da piccoli vogliamo che il tempo corra. Prima ho parlato con Raffaella, che domani compie 16 anni. Che bello. E gli ho detto, sai, se fossi in America potresti già guidare da domani. E quindi immagino che quando hai 14 anni, l'obiettivo è arrivare a cosa? A 18. Perché? Perché tua madre e tuo padre ti hanno detto da quando sei piccolo fino a quando hai 18 anni, decido io. E allora è lì che sei pronto a decidere tutto e poi non cambia nulla, però puoi prendere la macchina, però puoi sfiorare mezzanotte, però puoi firmare le giustifiche, che grandiosa conquista. È vero? Io facevo la firma falsa di mia madre, confesso pubblicamente, però mia madre lo sapeva, ok? Era lei che mi autorizzava e così ho sviluppato una buona attività di comunque, questo è nelle cose passate. Però puoi firmare la giustifica, cioè questo vuol dire che ti puoi svegliare la mattina. Chi va a scuola superiore? Puoi alzare la mano? Puoi svegliarti la mattina a 18 anni e decidere: voglio andare a scuola, non voglio andare a scuola. Mamma, non mi puoi dire più niente. Che brutta cosa. Comunque, fino a quando hai 18 anni, fino a quando hai 20 anni, il tempo va lento perché tutte le prospettive sono davanti. Poi iniziano i 25, i 30 anni e ti guardi indietro e dici: mamma mia, com'è passato veloce. Come sta andando veloce questo tempo? E poi sei ai 40 e dici: oh, sta correndo troppo. E poi arrivi a 70 e dici: com'è lenta la mia giornata. La prospettiva del tempo cambia, cambia nella nostra vita, eppure è sempre uguale. I minuti, i secondi scorrono da quando siamo piccoli a quando siamo adulti, a quando siamo anziani, nella stessa maniera nella nostra vita. Viviamo in una società che è permeata dalla paura di perdere tempo. E tutto quanto va più veloce. Pensiamo al nostro fare la spesa. Come è cambiato negli ultimi anni? Prima andavamo in un negozio, poi in un altro, nella bottega, così facciamo pubblicità occulta, o da un'altra parte, e investivi forse un'ora, un'ora e mezza a fare la spesa. Ora la nostra prospettiva, anzi fino a qualche anno fa, la nostra prospettiva era andare nell'ipermercato, comprare tutto quello che vogliamo, scegliere la cassa più veloce, fare la spesa in mezz'ora, senza salutare nessuno, col pigiama, magari col cappotto davanti, Da sopra e correre a casa. Oggi siamo in un'epoca in cui puoi comprare tutto dal divano di casa tua e massimo entro un'ora arriva qualcuno a casa che te lo consegna. Incredibile questo. Pensiamo alla comunicazione. Per parlare con qualcuno all'estero, prima dovevi uscire di casa, comprare una carta telefonica internazionale, andare alla cabina telefonica, al freddo e al gelo, spingere i 25 numeri che c'erano sulla carta e se sbagliavi dovevi ricominciare e chiamare. Oggi possiamo prendere il nostro cellulare, chiamare via WhatsApp o FaceTime o qualsiasi cosa, una persona dall'altra parte del mondo e non accorgerti che ci sia questa distanza. Incredibile, pensa al modo di viaggiare. In un'ora puoi essere dall'altra parte dell'Italia, in 24 ore puoi essere dall'altra parte del mondo. Tutta questa prospettiva ci dà l'unico scopo di risparmiare tempo. Perché l'idea è risparmiare tempo sulle cose inutili per investirle per le cose utili. Attualmente abbiamo lo stesso tempo che avevamo 10 anni fa, però abbiamo la possibilità di scegliere come investirlo meglio e non sprecarlo per le cose inutili. Mi sto chiedendo se veramente non lo sprechiamo. Perché lo stesso tempo che spendiamo davanti alla Bibbia, i nostri 60 minuti al giorno, gloria a Dio se ci sono, sono gli stessi che velocemente passano su WhatsApp. E dici: oh, ma com'è? Cioè, ti metti nel letto e dici: no, devo giusto rispondere a tutti i messaggi. E va via un'ora e un quarto. Oppure su Facebook. Non so che cosa c'è su Facebook, ma a me serve avere un orologio che mi dice quando sono entrata su Facebook e quando sono uscita da Facebook. Perché è lo stesso tempo che scorre nella stessa maniera davanti alla mia Bibbia. Ma non è la stessa cosa. Quindi abbiamo questa cosa, che è il tempo. Abbiamo la possibilità, l'unica forse vera nella nostra vita, di poter gestire un dono, che è il nostro tempo. Non sappiamo quando comincia e quando finisce, però sappiamo che ogni giorno abbiamo cosa? 86.400 secondi. Abbiamo ogni giorno 86.400 secondi, 1.440 minuti, 24 ore. Non so come vivi tu la prospettiva del tempo, però ti racconto un po' in casa Marinelli cosa succede. Mio marito è ossessionato dal tempo. Cioè, lui odia perdere tempo. Allora, vedete, quando c'è prima dell'incontro quella sigletta, il countdown, giratevi un attimo, così facciamo anche intimidire tutta la regia che in questo momento sarà guardata. Però lì c'è uno schermo. Ciao a tutti, regia, siete fantastici, fate un ottimo lavoro, vi amiamo. E grazie per il servizio che date ogni domenica con fedeltà. E lì c'è un timer, lo vedete quello schermo? Ok, lo vedrete ora e non lo vedrete mai più nella vostra vita, ok? No, sto scherzando. Comunque lì ci sono 25 minuti e 30 secondi, 29, 28, 27, che io ho a disposizione. Tutte queste cose sono per un motivo assurdo, è perché mio marito è ossessionato dal tempo. E ha trovato un pastore che lo aiuta nelle sue ossessioni. E quindi praticamente la nostra chiesa funziona con programmi, timer, countdown e tutto. Perché siamo ossessionati dal tempo? Sapete cosa ha fatto una volta mio marito? Io, diciamo, ho un varco a spazio temporale, che è il mio bagno, ok? Cioè quando entri in bagno sembra che il tempo cammini diversamente, no? E quindi ci dovevamo preparare, così Vito chiaramente era già pronto, ma chiaro, gli uomini non si truccano, non si devono neanche pettinare a volte, quindi per le donne è tutto un po' più complesso. Quindi lui mi ha detto, Sara, di quanto tempo hai bisogno? 2 minuti. Veloce, nel tempo di truccarmi. Accade qualcosa quando accendi la luce, non lo so, come un film, sai, tipo Ritorno al futuro, cioè quelle cose che entri e dici, che è successo qui? Comunque mio marito cosa ha fatto? Ha messo un countdown sul suo cellulare. Dopo 2 minuti è squillato il telefono, mi ha detto, sei pronta? Sto finendo, se n'è andato. Così, mi ha lasciato in bagno, se n'è andato. Io sono invece quella che il tempo è un po' diverso. No, no, nessun applauso. No, no, mi rifiuto su questo applauso, mi rifiuto, chiedete perdono alle vostre mogli per questo applauso, ok? Lo dico seriamente, hai capito? Io sono quella che non vuole perdere tempo nelle cose che a me non piace perdere tempo, quindi io sono quella che quando nel traffico sceglie la corsia più veloce, quando sono in aeroporto mi metto sempre davanti alla persona che so che mi farà spendere meno tempo al check-in, perché non mi piace perdere tempo, vivo nell'idea che mi è concesso del tempo e ho bisogno di gestirlo bene. Per cui sul mio cellulare troverete tutte le mie to-do list, io ho la lista delle cose da fare ogni giorno e non mi metto a letto se non le ho spuntate tutte, credetemi, a volte giro come una pazza, ma devo finire quello che ho fatto ed è anche un atteggiamento sbagliato. Perché no, si cerca sempre di arrivare a qualcosa che poi alla fine non arriva mai, però è soddisfacente. Il tempo. Abbiamo un qui, abbiamo un oggi, abbiamo un'ora. E sapete la cosa che mi fa impazzire di più? È che ogni giorno io ho lo stesso tempo che è stato concesso a Martin Luther King, a Madre Teresa di Calcutta, a Steve Jobs, o a persone che hanno fatto veramente la storia, come Pietro, come Paolo, come Gesù. I miei minuti vanno avanti nella stessa velocità dei minuti della vita di queste persone. E questo mi mette un'urgenza. Questo mi mette un'urgenza perché? Perché ho scelto, voglio fare la differenza con la mia vita. Cioè voglio che questo mondo, quando io morirò, sia diverso. Chi ha questa prospettiva? Posso vedere la mano? Amen. È solo una possibilità che ci viene data. Sarai su questa terra una sola volta. Non credere a tutte quelle bugie della reincarnazione. Una sola volta sarai qui per un tempo. Il tuo creatore ha deciso che metterai piede in un giorno e che andrai via in un altro giorno. E questo è l'arco di tempo che ci è concesso per fare quello che noi vogliamo con la nostra vita o fare quello che lui vuole con la nostra vita. Sai una cosa? Tu sei creato con uno scopo e sei creato con un'idea che Dio ha per ogni tuo giorno. Non è bellissimo questo? Non siamo nati per nascere, crescere e morire, noi siamo nati per segnare la storia, per fare la differenza, per influenzare questo mondo. Che cosa sarà scritto sulla tua lapide quando morirai? Cosa sarà scritto sulla mia lapide quando morirò? Io voglio che ci sia scritto questo. Ha fatto tutto quello che Gesù ha deciso per lei. Io voglio che ci sia scritto questo. E tremo all'idea di perdere tempo davanti ad una chiamata più grande per la mia vita. Io tremo davanti all'idea di perdere minuti, ore, a non realizzare quello che lui vuole. Voglio leggervi un verso. In Isaia 55 c'è scritto questo. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore, e come i cieli, sono alti, al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, i miei pensieri più alti dei vostri pensieri, come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi tornano senza aver sporcato le strade, bloccato i torrettesi, i motolesi, eccetera, non vi tornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, dice il Signore. così è della sua parola fatta uscire dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Che verso glorioso! Vi piace? A me piace un sacco questo verso. E questo è un verso che ci sta dicendo che le mie vie e i miei pensieri stanno qui. Le sue vie e i suoi pensieri stanno qui. Quindi quando io decido di vivere la mia vita con i miei modi, con le mie decisioni, con quello che voglio, con quello che mi piace, mi sta dicendo questo verso di Isaia che io rimango qui e che io rimango per terra. Quando decido di vivere quello che lui vuole, i suoi pensieri, le sue vie, le sue decisioni, il suo cuore, allora arrivo qui. Io non voglio rimanere qui. E c'è una grande distanza. E questo verso ci può far reagire in due maniere. O ci rilassa e ci rassicura. Non so, ci sono giorni in cui ti svegli, leggi questo verso e leggi. I miei pensieri non sono i tuoi pensieri e le mie vie non sono le tue vie. Lo senti quel massaggio sulla schiena? Che dici, ok, ti puoi rilassare, stai tranquillo, non è a te. Così, questo verso mi rassicura perché c'è lui al controllo, c'è lui che prepara le vie, c'è lui che ci dà i modi, c'è lui che ci dice ok, metti qui il piede, c'è lui che ci dice questo desidero per la tua vita, c'è lui che mi indica la strada. E questo vuol dire perdere il controllo delle cose e dire ok Signore, faccio quello che vuoi tu e così sono sicura. Faccio quello che vuoi tu, vado dove tu vuoi, metto il passo dove tu vuoi e sono esattamente sicura che sarò lì, sarò nelle vie più alte, sarò nelle vie straordinarie. Questo verso, oltre che darci il massaggio sulla schiena, ci mette un po' di mal di stomaco, vero? È un po' spinoso. È un po' spinoso che lui dica, Sara, buongiorno. Gesù fa così con me. Buongiorno, Sara. Quello che tu hai pensato per te non mi interessa. Oggi facciamo quello che voglio io perché è più buono. Ti piace? A volte sì e a volte no. Ci piace un po' avere il controllo della nostra vita. Ci piace fare quello che vogliamo. Ci piace sapere che qualcun altro ci deve dirigere per una via. Non sempre è facile, perché questo vuol dire prendere il posto a cui tu sei abituato, quello comodo, quello che occupi sempre, la tua abitudine, la tua scansione giornaliera, quello che ti piace, quello che hai previsto, quello per cui hai investito i soldi, forse quello per cui hai preso un impegno per 20 anni, forse qualcosa in cui ti sei ficcato e non riesci ad uscirne e dire ok, ma non è quello che Dio vuole. E quindi devi fare forza per dire devo uscire, non è quello che Dio vuole. Oh, faccio quello che Dio vuole. È difficile, è brutto lasciare il posto che noi ci siamo guadagnati per noi stessi. Perché quello che noi vogliamo e ci piace. Forse a volte ci siamo costretti in un posto che non è quello che a noi piace. E quindi che la cultura ci ha spinti a prendere, che le aspettative su di noi ci hanno spinto a prendere. Ecco, questo verso ci dice che c'è una via più alta, che c'è un modo migliore. Però sai una cosa? Leggiamo la fine di questo verso. Essa non torna a me a vuoto, la mia parola. In altri termini, il destino che io ho messo sulla tua vita non prevede fallimento. Che bello! Quello che esce dalla mia bocca non torna indietro se non fa quello per cui io l'ho mandato. Uguale, non esiste fallimento in Dio. Il fallimento non è nella via che Dio ha previsto per la nostra vita. Se fai esattamente quello che Lui vuole, non esiste un fallimento per te. È impossibile che tu ti trovi in una strada senza quello scopo preciso che Dio ha previsto per la tua vita. Uno. E due, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine quello per cui io l'ho mandata. Ha un buon fine. Te lo voglio ripetere, ha un buon fine. Quello che Dio ha per te è buono. Quello che Dio ha per me è il meglio. Per quello sta qui. E se non mi piace, se non ce la faccio, se ho deciso diversamente, devo fare i conti con il fatto che il meglio sta qui. E che io sto qui. E che posso continuare a vivere. Dio mi amerà comunque se io vivrò qui, ma il meglio sta qui. E scusami tanto, io voglio quel meglio. Posso vedere la tua mano decisa per quanti dopo questa dichiarazione dicono «Oh, io voglio vivere per Cristo». Puoi alzare la tua mano. Io voglio vivere per Cristo. Io voglio vivere quello che Lui ha detto. Lo puoi dire più convinto? Alzala forte. E se sei più convinto ancora, alza le due. E se proprio non vuoi morire per Lui, alzati in piedi. Perché siamo pronti a quella che è la vita che Lui ha previsto per noi. Amen? Sì, Fabio, tu morirai per Cristo. Stai tranquillo. Ti sei alzato, è una buona cosa. È una buona cosa. Ed è bellissimo. Il problema sta nell'oggi e nell'ora. Perché che bello poter dire alla fine della nostra... Tutti quanti noi vogliamo vivere alla fine della nostra vita dicendo questo è stato un fratello fedele, un figlio bello, fantastico, ha fatto tutto quello... E io voglio che oggi si dica così di me. Io voglio che Gesù dica di me, figlia, oggi stai facendo quello che voglio io. Stai andando bene. Oggi, ora, è quello che ho deciso per te. Non alla fine dei miei giorni, oggi. Perché decidere di vivere e di morire per Cristo significa come spendiamo i prossimi 10 minuti. Come spendiamo la prossima ora. Come spendiamo le prossime 3 ore. Come spendiamo domani? Non è fino a quando moriamo, è nei prossimi 10 secondi. Cosa ci sarà nella tua testa? Tre, due, uno. Che cosa c'è stato nella tua testa? Questi 10 secondi sono determinanti. Hai pensato a qualcosa di veramente glorioso? Hai pensato veramente a quello che Dio voleva per te? O hai pensato a tutt'altro? Ecco, quando parliamo dell'oggi e ora, sto parlando proprio di questo, dello scegliere in maniera piccola, oggi, qualcosa che ha un risultato su quello che succede tra un'ora, quello che succede tra 2 ore, quello che succede tra 2 giorni, quello che succede tra una settimana, tra un mese. Se oggi facciamo quello che Dio vuole, abbiamo la garanzia che domani siamo dove Dio vuole. Abbiamo la garanzia che tra un mese siamo esattamente dove Dio vuole. Abbiamo la garanzia che tra un anno siamo esattamente dove Dio vuole. Questo è quello che ognuno di noi ha bisogno di sapere. E cioè, Signore, sono nella tua volontà o non sono nella tua volontà? Signore, che devo fare? Voglio leggerci una storia, voglio leggere insieme una storia che ha a che fare veramente con quello che è pratico. Con scelte pratiche che Dio, che Gesù stesso ha chiesto di fare ad una persona per essere al centro della sua volontà. E questo è Giovanni 5, una storia che conosciamo tutti e la leggeremo velocemente. Ed è la storia del paralitico a Betesda. Leggiamolo insieme, Giovanni 5. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. E ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici, ascolta bene, giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento. Il primo che vi scendeva, dopo che l'acqua era stata agitata, era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là, ora comincia ad arrivare Gesù, là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. E Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? Le domande simpatiche di Gesù. E l'infermo gli disse: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca. E mentre ci vengo io, un altro mi frega il posto. E Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ascolta ora. In quell'istante, ora, oggi, quel giorno, in quell'istante, quell'uomo fu guarito. Non è glorioso questo? Eh? Non è qualcosa che ci entusiasma da morire, a me sì. Io quando leggo così, sai, poi penso al tempo. Bam, il tempo si è fermato, 38 anni, e in un momento tutto cambia. 38 anni di vita in quella condizione, lì, con un handicap forse molto grande, perché non permetteva a quest'uomo di essere sano, di vivere una vita comune. Bam, in un attimo, questo è il nostro Gesù. Lui arriva e cambia. Lui arriva e guarisce. E per lui 38 anni possono svanire in un secondo. In un secondo, perché questo è il nostro Dio glorioso. Amen? Amen? Questo è il nostro Dio, questo è il Dio in cui noi crediamo. Questo è il Dio che quando entra non lascia le cose così come sono. Non gli piacciono. Lui vuole cambiare le cose. Lui non si accontenta di lasciare lo stato delle cose. Lui non si accontenta di lasciare la nostra vita così com'è quando lui è entrato. Lui la vuole cambiare. Perché? Perché lui è il meglio. L'infermità, 38 anni, la piscina, tutti che corrono, lui che non è il posto, e Gesù arriva e lui è il meglio. In un istante quell'uomo fu guarito. Non è glorioso? E preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Guardiamo un attimo. Quel giorno era di sabato. Guarda caso, era di sabato. Perciò i giudei dissero all'uomo guarito: che bello che sei guarito! Da 38 anni eri lì e ora arriva quest'uomo, Gesù, che compie miracoli. Incredibile, straordinario. Vieni a glorificare Dio con me. Andiamo in chiesa, andiamo ad alzare un canto. No, arrivano i giudei. Quanti giudei arrivano nella nostra vita? E i giudei ci stanno nella nostra vita. L'importante è che tu non sei un giudeo per qualcun altro, ok? Arrivano i giudei e dissero a quell'uomo guarito: è sabato? No, no, no, non ti è permesso di portare il tuo lettuccio. Che bello avere queste persone nella nostra vita. Ci sono le persone che ti dicono: hai fatto tutto bene, però, sempre lì il pelo nell'uovo, sempre lì a criticarti, sempre lì a dirti quello che non va, sempre lì a dire è religione, e la religione si rispetta, è la tradizione, si fa così, non lo stai facendo. Io glorifico Dio per i giudei nella mia vita, perché mi alimentano grazia, perché mi offrono l'opportunità di guardare gli altri con più perdono. Prego solo una cosa, di non essere un giudeo per qualcun altro. Io non voglio essere quello che è così cieco dal vedere la forma ignorando il contenuto. Io non vorrei mai essere uno scoraggiatore. Io non voglio essere quello che dice: hai fatto tutto bene, però hai sbagliato una cosa. Io voglio essere uno che dice: hai fatto bene? Gioiamo alla grande. Hai fatto male? Lo faremo meglio insieme domani. Io voglio essere questo. Però ci sono i giudei nella nostra vita, accettiamoli e impariamo a fare le cose che Dio ha, anche con questo tipo di persone. Ci piace? Ci vedo convinti che ci sono i giudei nella nostra vita. Sei convinto di non essere il giudeo per la vita di qualcun altro? Amen. Prendi il tuo lettuccio. Ah, no, scusate, è sabato, non ti è permesso di portare il tuo lettuccio? Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ed essi gli domandarono: e chi è l'uomo che ti ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato, perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più, perché non ti accada di peggio. L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato. Che storia gloriosa, che storia incredibile. Questo è il nostro Dio. Il nostro Gesù è attento ai particolari. Il nostro Gesù sa esattamente quello che ci succede. Il nostro Gesù sa esattamente dove trovarci, sa esattamente quello che stiamo vivendo, sa esattamente da quanto tempo lo stiamo vivendo e sa esattamente che Lui è l'unica soluzione per la nostra vita. Per quello arriva. Per quello ci incontra. E la cosa straordinaria è che Gesù non vede tutti gli infermi, gli zoppi, i ciechi e dice a te: beh, sei uno di loro, ti lascio qui. No, no, Gesù ci vede, Gesù ti vede, Gesù mi vede in mezzo a tanti. Lui ha una cura per il particolare. Lui ti cura. Perché? Perché lui è venuto per amarti, per manifestarti tutto il suo amore. Lui ti ha creato. Come può dimenticarsi di te? Come può dimenticarsi di te? Lui conosce esattamente le nostre condizioni. Lui sa esattamente in quale sfida stiamo vivendo. Sa esattamente in quale peccato, in quale malattia, in quale conquista. Però, Chiesa, ascoltami bene. Lui sa esattamente dove ci troviamo. Però Lui sa esattamente dove vuole portarci. E Lui vuole fare di noi delle persone che scandalizzano nel giorno di sabato. Lui vuole fare di noi delle persone che rompono nella religione. Lui non è venuto per creare una nuova religione. Lui è venuto per avvicinare le persone a Dio, al Padre. Ecco che la tradizione non ci aiuta e ci chiude in uno schema. E io sono onorata di poter far parte di una Chiesa che si interroga ogni giorno come vivere una relazione con Dio personale, vera, contestualizzata, e che dice a questo mondo: non vieni nella mia religione, ma vieni a conoscere un Gesù che è vivo. Sei contento anche tu di far parte di una Chiesa così? Potevi stare in un'altra Chiesa? No, noi ti vogliamo qui. Noi ti vogliamo qui. Chi ce lo dà un altro pastore come il nostro? È vero, eh? Facciamo un applauso. A quale prospettiva straordinaria. Dio ha, quale benedizione per noi il pastore. Pastore, sei una benedizione per noi. E grazie perché fai le cose di sabato. Grazie perché scandalizzi. Veramente. Anche per l'incontro di preghiera alle 6 di sabato. Ti vogliamo tutti bene. Io amo le prospettive nuove che Dio sta dando alla nostra Chiesa. Quanto mi piace la mia Chiesa. Ti piace? Dillo alla persona vicino a te, ti piace? E dagli uno schiaffo, così lo sa che è la tua Chiesa, ok? Gli hai dato bello forte? Ehi Gesù, Paolo, sei stato cauto con Rosa, tua moglie? È stato delicato, un tocco gentile da gentiluomo, bravo, bravo, bravissimo. Andrea, hai dato una bella calata a Luca? Bravissimo. Che belle le calate di Gesù. E queste sono calate di Gesù. A volte arrivano. Gesù conosce le nostre impossibilità. Gesù conosce le nostre infermità. Gesù conosce esattamente dove siamo. Gesù conosce che qualcun altro arriva prima di noi. Lui sa le conquiste in cui gli altri arrivano e in cui noi fatichiamo. E tu lo sai, è vero, ma anche Gesù lo sa. E Lui non lo ignora. Gesù non ha ignorato che tutti avevano qualcun altro che andasse, spingesse qualcuno nella vasca e questo infermo no. Che bello. Che bello. Gesù conosce il nostro stato. E sai, Lui non ci guarisce solo nel fisico, ma pensa a quello che l'infermo ha vissuto dopo. Quando è entrato l'ex paralitico, è entrato nel Tempio, Gesù lo ha guardato, guarito nel corpo, e le ha detto: va e non peccare più, perché non ti accada di peggio. Perché il peccato fa entrare cose ben peggiori che la malattia fisica nella nostra vita. Il peccato ci divide, ci distrugge, ci ruba, ci annienta. Questo Gesù non è venuto a guarire solo il corpo, ma è venuto a guarire tutto. E in quel momento non gli ha dato solo una guarigione fisica, gli ha dato salvezza, gli ha dato vita eterna, gli ha dato un nuovo destino, ed è questo lo scopo di Cristo Gesù. Ma oggi e ora, quando Gesù ha incontrato il paralitico, gli ha detto quello che doveva fare e quello che non doveva fare. Ecco che torniamo a noi, allo spendere la nostra vita per un regno eterno e a sapere oggi cosa devo fare. Bene, prendiamo questo esempio. Uno, prendi il tuo lettuccio. Prendi il tuo lettuccio. Di sabato? Pazzo Gesù! Pazzo pure tu! Prendi il tuo lettuccio. Prendi quello che Dio ti ha detto di prendere e comincia a fare diversamente. Prendi tutta la tua situazione e di sì! Di sì! Quell'uomo non ha detto: no Gesù, però aspetta, non mi guarire proprio oggi, vieni domani, perché domani posso portare il mio lettuccio. Incredibile, quando c'è quella via, non usiamo scuse, non possiamo dire a Gesù: no Gesù! Allora dobbiamo per forza dire di sì. Dobbiamo per forza dire di sì. Quello che tu mi dici, io lo faccio. Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio, Gesù, perché le tue vie stanno qui e le mie vie stanno qui. E io stavo con lettuccio lì da 38 anni, ma oggi mi dici di camminare, io cammino perché voglio fare quello che tu mi dici. E poi gli ha detto: non peccare più. Gli ha detto di sì, prendi il tuo lettuccio. Gli ha detto di no, non peccare più. Rompi con la tua vecchia vita, rompi con l'abitudine sbagliata, rompi con la tradizione, rompi con quello che c'è più comodo fare, rompi con quello che la tua carne ti chiama a fare, rompi da quello che tutto quello che hai intorno ti chiede di fare, di no. Oggi, oggi, noi possiamo decidere esattamente se tra 10 anni saremo pienamente nella volontà di Dio. Ascoltami, chiesa, in questi 10 anni ho avuto l'onore di poter vedere tanti ministri, tante opere nuove, tante persone scegliere per Cristo che oggi non vogliono nemmeno più parlare di chiesa e non vogliono più nemmeno parlare di Dio. E mi chiedo tante volte, ma com'è successo dallo stare al centro della volontà di Dio al girargli le spalle? E quello che posso vedere oggi, dopo 10 anni, è sì, lì, in quel momento, c'è stato un errore. Forse è stato un accettare un lavoro sbagliato, dire sì ad un matrimonio sbagliato, accettare una persona che non era prevista da Dio, accettare una gestione finanziaria sbagliata. Quanto questo ci obbliga a vivere una vita che non vogliamo? Quanto i mutui e i debiti ci invitano, ci costringono a vivere una vita che non vogliamo? Io non voglio finire qui. Io non voglio finire lì, perché ho visto un attimo, in un attimo, quella persona dire sì a qualcosa che Dio non voleva e dire no a quello che Dio voleva, perché era troppo difficile, perché era troppo distante da quello che tutti gli stavano dicendo, perché era diversa dall'idea comune. È il lettuccio di sabato, il lettuccio di sabato. E Gesù dice: cambia, non accettare questo status, non fare come tutti quanti fanno. Ehi chiesa, la storia è in mano a persone che sono state diverse. Lo dico di nuovo, la storia è in mano a persone che sono state diverse. Noi leggiamo di giudei senza nome che non hanno fatto la storia, o se l'hanno fatta in negativo. E poi leggiamo di Pietro, di Paolo, di Timoteo, di Filippo, di Tommaso, persone che hanno fatto la storia in positivo, persone che hanno scelto in un momento di fare esattamente quello che Dio voleva. Ecco che tra un anno, tra 10 anni, possiamo dire che siamo al centro della volontà di Dio se oggi e ora noi diciamo sì a quello che Dio vuole per la nostra vita e diciamo no a quello che Dio non vuole per la nostra vita. Tra 20 anni, tra 30 anni, quando moriremo, saremo al centro della vita con Dio. Sì, se oggi, tra 10 minuti, tra un'ora, stasera, prima di andare a dormire, potrei fare la lista delle cose e dire: ho fatto quello che tu vuoi, Signore, o non ho fatto quello che tu vuoi. Allora se c'è qualcosa che ho accettato e non è quello che tu vuoi, io lo voglio togliere, domani non lo farò, non lo voglio fare, non voglio spendere il mio tempo così, non voglio accettare questa cosa, non voglio dire di sì a quell'abitudine, voglio spendere diversamente il mio tempo. Questo è oggi e ora. Voglio leggere un ultimo verso. Efesini 3, per chiudere, per darci una prospettiva che è veramente eterna. Efesini 3:10 dice questo: affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, per mezzo tuo, mio, nostro, della Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio. Questa è la infinitamente varia sapienza di Dio. Questo è, come dicevamo prima nella lode, quello che misuratamente, al di là di quello che noi immaginiamo e pensiamo, sono le vie, i pensieri alti quanto il cielo è distante dalla terra. Questa è la infinitamente varia sapienza di Dio. Secondo cosa? Il disegno eterno che Egli ha attuato mediante il nostro Signore Gesù Cristo, nel quale noi abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui. Ecco che oggi, quello che Paolo dice nella parola oggi, non è oggi 2000 anni fa circa quando ha scritto questa lettera agli Efesini, no, è nell'età presente, è un tempo che non finisce mai, perché è solamente quando siamo nella volontà di Dio che l'oggi assume una dimensione eterna. lo dico di nuovo, se oggi scegliamo di essere nella volontà di Dio, la nostra vita prende una dimensione eterna, perché domani, dopodomani, tra 10 anni, tra 20 anni, qualcuno si sarà convertito grazie al tuo esempio di oggi, e tu non lo saprai, io non lo saprò, ma questo assume una dimensione eterna, senza una fine, scusatemi, senza un inizio e senza una fine. Come? Nei prossimi 10 minuti io tremo all'idea che perderò 10 minuti del mio tempo lontano dalla volontà di Dio. E oggi sono qui con voi a cercare di capire questo discorso, perché non l'ho capito ancora pienamente. Però io non voglio rimanere qui. Io non voglio rimanere qui. Io voglio allinearmi qui. Ci piace? Vogliamo alzarci in piedi? Come diceva il pastore prima, voglio proprio concludere così. Avremo oggi il coraggio, avremo oggi la radicalità, avremo oggi la santità di dire sì e di dire no. Avrai oggi il coraggio di tornare a casa, riunire la tua famiglia e dire: ho sbagliato tutto, facciamo di nuovo. Avrai oggi il coraggio di scrivere a tutti i tuoi amici un messaggio su WhatsApp e dire: perdonatemi, non sono stato un esempio fino ad ora, ma da oggi comincio a farlo. Per questo ti elimino. E per questo ti blocco. E per questo non mi vedrai su Facebook per 2 anni. E per questo non avrò più le mie foto sui miei social. Perché ho capito che stavo dicendo sì a qualcosa che Dio non voleva per me. Avrai oggi la radicalità di lasciare il tuo lavoro e di iscriverti ad un viaggio missionario. Avremo oggi la radicalità di fare diversamente con i nostri soldi. Abbiamo un mese di raccolta miracolosa. Il miracolo è al di fuori dell'ordinario. Avrò oggi il coraggio di non spendere i miei soldi per quello che voglio io e di investirli in qualcosa che è eterno. Incredibile quello che diceva prima il pastore: siamo qui perché qualcun altro ha investito. Ci sono persone che mi hanno permesso di convertirmi con le loro scelte finanziarie, perché mi sono convertita, ho accettato Gesù in una chiesa, in un locale molto carino, che c'era da 20 anni prima che io mi convertissi. Qualcuno ha dato fedelmente la decima e l'offerta, forse ha dato straordinariamente, per permettermi di entrare un giorno e accettare Gesù, il Gesù che ha cambiato la mia vita. Forse negli ultimi 5 anni tu stai permettendo questo, e forse c'è qui qualcuno oggi per la prima volta che può incontrare Gesù, e sei il benvenuto in questa nuova vita, sei benvenuto nella vita straordinaria che Dio ha per te. E io mi sento onorata di poter investire il mio tempo, le mie finanze, la mia volontà, i miei desideri per permetterti questo. Chiesa, quello che stiamo investendo oggi, tra 5 anni, porterà dei frutti straordinari che forse non riusciamo a conteggiare. Questo è l'eternità, quello che non si vede con gli occhi naturali. A me piace questa vita e tremo dall'idea di non volerla vivere. Tremi anche tu con me? Io sono terrorizzata dal vivere una vita bellissima. Voglio mettermi in difficoltà. Ho scelto di accettare, di dire sì, a prendere il mio lettuccio e a camminare, a dire di no a tutto quello che non mi appartiene, ed è una scelta giornaliera, ed è una scelta che faccio oggi per i prossimi 10 minuti, per la prossima ora. Amen. Posso chiederti oggi di prendere una decisione? Chiudiamo i nostri occhi. Ti voglio chiedere, so che oggi, da quando abbiamo iniziato l'incontro, Dio ci sta spingendo verso una radicalità e un livello nuovo, e io so che in mezzo a noi ci sono persone a cui Dio sta chiedendo di fare delle scelte straordinarie. Non lo so in quale direzione, tu lo sai, però oggi è un sì a qualcosa ed è un no a qualcos'altro. Mentre teniamo la testa bassa, posso chiederti di alzare la mano se hai deciso oggi di dire un sì o un no? Voglio pregare per ognuno di noi che ha scelto una radicalità nuova, una vita soprannaturale. Vogliamo pregare insieme, alziamo la nostra voce chiesa e confessiamo: Padre, grazie per quello che tu ci regali, grazie per tutto il tuo dono, per la tua grazia, per la tua libertà, per la tua gioia, per la tua guarigione, per le tue liberazioni, per la tua volontà straordinaria, perfetta per ognuno di noi. Grazie per le tue vie più alte, grazie per le tue vie più belle, grazie perché tu hai uno scopo per me incredibile, a buon fine. Grazie perché non c'è fallimento nella mia vita se io seguo la tua volontà, e ti lodo per questo. Grazie Padre, la mia volontà oggi è di dire di sì alla tua vita soprannaturale, a tutta la tua volontà straordinaria, alle tue vie alte, e di rinunciare con tutta me stessa a tutto quello che non mi appartiene, a quello che tu non hai previsto per me. E prego questo per un'intera chiesa, è una chiesa piena di fede, grida Amen.